in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Secondo sabato di dicembre, galoppiamo sempre più velocemente verso il Natale e per iniziare questa rassegna stampa internazionale ho trovato questo articolo apparso su New Scientist, tradotto da Internazionale, perché forse potremmo approfittare delle vacanze di Natale, se abbiamo la fortuna di farle, per sottoporci a questo programma di 8 giorni per disintossicarsi dai dati. Così si intitola l'articolo apparso su New Scientist. Che si chiede? Avete installato troppe app sul telefono? Non sapete più quanti account avete aperto? Avete cliccato un po' troppe volte su accetto? È ora di rivedere le vostre abitudini digitali. E c'è proprio in questo articolo, che appunto trovate poi su Internazionale, questa sorta di programma in 8 giorni che proprio dice che cosa fare dal giorno 1 al giorno 8. Il giorno 8 uno dovrebbe trovarsi ripulito. All'ottavo giorno è come se mi fossi ripulito dai miei peccati, scrive Timothy Revel, l'autore di questo articolo. Continuo a fornire dati alle grandi aziende, comodo per avere alcuni documenti sincronizzati su diversi dispositivi, ma ora ho scelto di farlo e almeno ora non permetto alle aziende di monitorare tutte le cose strane che cerco su internet. È appunto interessante, anche perché credo che sia un problema un po' per tutti, anche perché una volta che abbiamo cliccato su accetto, è molto più semplice cliccare su accetto che poi iscriversi da una newsletter o da un qualsiasi servizio di notifica automatica, e questo gonfia le nostre caselle di posta elettronica a dismisura. Poi naturalmente c'è anche tutto il resto di cui parlava l'articolo, come le app. Ma passiamo a argomenti un pochino più seri, anche se questo poi, con tutti i risvolti che ha sulla privacy, potrebbe in realtà essere molto serio, e parliamo della riforma fiscale che è praticamente stata approvata negli Stati Uniti. La Camera Alta, cioè il Senato, l'ha approvata, quindi ormai è, come scrive il New York Times, è una riforma che marcia verso l'approvazione, una riforma fiscale che Donald Trump aveva messo al centro del suo programma elettorale. È sostanzialmente una serie di tagli fiscali, seguendo quella teoria economica che era già stata cara a Ronald Reagan, per esempio, che comunque è vero che l'effetto immediato di un taglio delle tasse è un minore gettito per lo Stato, però il fatto che le aziende e i privati abbiano più soldi da spendere perché ne hanno dovuti versare meno al fisco aumenta comunque da una parte i consumi per le persone e da una parte gli investimenti per le aziende. Questa è la teoria, poi naturalmente vedremo se funzionerà. Intanto New York Times, Financial Times e tanti altri giornali hanno provato a simulare un po' che cosa potrebbe succedere alle varie aziende quando la riforma entrerà in vigore. Secondo Financial Times, Apple, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, potrà risparmiare fino a 47 miliardi di dollari, cosa che la renderebbe il maggior beneficiario della riforma. Per quanto riguarda invece il settore immobiliare, riporto al New York Times, la riforma prevede che redditi derivati da affitti e interessi sui mutui siano tassati con aliquote più basse di quelle attuali, con un trattamento simile a quello finora riservato ai guadagni in conto capitale di lungo termine e ad alcuni dividendi, quindi da investimenti azionari. Avrete sicuramente anche letto alcuni commenti sui giornali italiani, perché di questo tema di riforme fiscali, di flat tax, un termine con il quale si intende un'aliquota uguale per tutti e non progressiva, si discute tantissimo anche in Europa. Vedremo appunto innanzitutto quando sarà definitivamente approvata, e poi vedremo se davvero ci saranno i benefici sull'economia che Trump e il suo team di economisti auspicano. Il Wall Street Journal invece si occupa del Bitcoin, anche qui ne abbiamo parlato tantissimo nella scorsa settimana anche in Italia, questa, sapete, questa moneta virtuale. Secondo il Wall Street Journal, i pirati informatici hanno rubato quasi 70 milioni di dollari dalla piattaforma NiceHash, che gestisce, appunto, che lavora con i Bitcoin, riuscendo a violare le misure di sicurezza e provocando il blocco del servizio per almeno 24 ore. È insomma un po' curioso, no? Che nemmeno chi proprio nasce in un ambiente, come in una specie di terreno digitale, che quindi sicuramente conosce molto meglio magari di chi ha altri tipi di percorsi, conosce molto bene i rischi della tecnologia, del fatto di avere un computer che da qualche parte può avere una piccola porta aperta per un hacker, che poi alla fine anche loro appunto non restano immuni. anni. Grazie a Vox Europe, che sapete cito sempre perché è un sito voxeurope.eu che una volta aveva anche dei fondi europei, ora non li ha più, ma comunque prosegue in quest'opera di traduzione anche da lingue non molto diffuse di articoli della stampa europea, principalmente sull'Europa, ma a volte non solo. Questa volta ha pubblicato, lo trovate come sempre appunto su www.voxeurope.eu, tradotto in un eccellente italiano, una lunga analisi sul problema della violenza sulle donne. Sapete che la settimana scorsa si è celebrata questa giornata, per la precisione il 25 di novembre, questa giornata internazionale di lotta alla violenza contro le donne. E questa è stata un po' l'occasione perché la European Data Journalism Network abbia messo a punto, elaborato, raccolto tutti questi dati per giungere alla triste conclusione che comunque la violenza contro le donne è diffusissima anche in Europa. Noi certo pensiamo alla violenza, quella che per me resta una violenza estrema, quella per esempio del burqa imposto alle donne in Afghanistan, ma in Europa non c'è poi tanto da essere contenti. Scrivono Marzia Bona e Alberto Burba di questo network sul sito di Vox Europe. 43.600 è il numero di donne e ragazze uccise nel 2012 in tutto il mondo da un partner, un ex fidanzato, un membro della propria famiglia. Un terzo dell'universo femminile dichiara di aver subito almeno una volta una forma di violenza fisica o sessuale. Solo l'11% delle vittime denuncia il caso alle autorità. A presentare queste cifre è il rapporto Combating Violence Against Women dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, cioè l'OSCE, pubblicato nel novembre 2016. Dati che fanno impallidire, perché questi numeri, ricordano questi due giornalisti, sono paragonabili ai dati del conflitto siriano, 40.000 morti nei primi 20 mesi di guerra, e sono lo specchio di un problema che interessa il mondo intero. I paesi che registrano i casi più numerosi sono sparsi ai quattro angoli del pianeta: in Russia, El Salvador e Sudafrica. Il tasso di femminicidio supera i 6 casi ogni 100.000 donne, toccando punte di 15 casi ogni 100.000 in Honduras. Nei paesi dell'Europa occidentale il tasso medio è annualmente di 0,4 vittime di femminicidio ogni 100.000 donne. Per una donna che vive in Honduras, quindi, il rischio di essere vittima di un omicidio di genere perpetrato dal partner o all'interno della cerchia familiare è 40 volte più alto di quello che interessa una cittadina dei paesi dell'Europa occidentale. Ma i dati sulla situazione in Europa sono tutt'altro che rassicuranti. Davvero vi invito, è un sito assolutamente gratuito, approfondire questo tema. Naturalmente vale questo mio invito per tutti, perché sono d'accordo su questo, almeno con il presidente del Senato Piero Grasso, che la violenza di genere, che sappiamo è quasi sempre una violenza degli uomini contro le donne, in realtà non è un problema delle donne, è un problema delle donne e degli uomini. Passiamo a un altro tema che mi sta molto a cuore, ne avevamo parlato tanto un anno fa, ed era la pace finalmente raggiunta, sembrava, in Colombia. La Semaña, però, un settimanale appunto colombiano, anche in questo caso la traduzione la trovate su Internazionale, ha pubblicato questo articolo che si intitola A un anno dalla pace, la Colombia è pessimista. L'accordo firmato nel 2016 tra il governo di Bogotà e il gruppo guerrigliero delle FARC ha fatto diminuire la violenza nel paese, ma per una riconciliazione definitiva c'è ancora molto da fare. Nel 2018 in Colombia si vota, e quindi l'articolo spiega che molto anche del futuro di questo percorso di rappacificazione più che di pace dipenderà anche dall'esito delle elezioni. E a proposito di guerre che apparentemente sono alle nostre spalle, però questa è una guerra di cui forse non si è mai abbastanza parlato, che non viene mai abbastanza ricordata. Parliamo naturalmente del conflitto nella ex Jugoslavia. L'articolo che vi cito è stato pubblicato dal Guardian, da Ed Vulliami, che è un giornalista dell'Observer, che è l'edizione domenicale del Guardian, e del Guardian è stato inviato di guerra nei Balcani ha scritto dei libri bellissimi su questa, bellissimi nel senso proprio scritti da una persona che ha visto le cose che ha poi raccontato, e qui torna sul personaggio, su quell'ex comandante dei serbi di Bosnia, riconosciuto colpevole di genocidio dal Tribunale per i Crimini di Guerra dell'AIA, Ratko Mladic, naturalmente, secondo Ed Vulami, tutto sommato ha vinto nonostante la condanna, perché secondo appunto questo giornale, il tribunale dell'AIA avrebbe dovuto promuovere la riconciliazione, ma di riconciliazione non c'è traccia. Mladic ha ottenuto quello che voleva, la creazione di uno staterello serbio in Bosnia Erzegovina, da cui nel 1995 sono stati banditi quasi tutti i non serbi. Era l'ultima segnalazione per oggi, un po' mi dispiace di aver concluso così con una nota di pessimismo, ma credo veramente sia importante vedere, guardare ai trattati di pace, alla fine dei conflitti, la fine, diciamo, formale dei conflitti, ma soprattutto poi ai processi di riconciliazione. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.